get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Allora, buonasera a tutte, ben sintonizzate sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. Finalmente siamo riuscite ad andare in onda, dunque quella che state per ascoltare è la 151esima trasmissione autogestita dal coordinamento Lesbiche Romane, che oggi vi farà compagnia con le voci di Caterina, che sono io, e Pina, che tra poco arriverà. Ricordiamo che ci potete mandare dei messaggi utilizzando il numero 338-4146-682. Dunque, in programma oggi abbiamo la registrazione della presentazione avvenuta alla Casa Internazionale delle Donne la settimana scorsa di un nuovo libro lesbico, e stiamo parlando di Con Pedigree di Lola Vanguardia. Hanno organizzato l'evento la libreria Zora, che con Maria Palazzesi ha coordinato i lavori, e la casa editrice Il Dito e la Luna, che era presente con la sua presidente Francesca Polo. Hanno preso parte all'iniziativa poi Sara Zanghi, che ha presentato il libro, oltre ad averlo tradotto insieme a Margherita Giacobino, e l'autrice venuta apposta dalla Spagna. Dunque, prima di cominciare ci corre l'obbligo di ringraziare Rosa, che ci ha gentilmente fornito il materiale per la realizzazione di questa trasmissione. È con grande piacere che constatiamo la disponibilità di alcune donne che ci cominciano a dare la loro collaborazione per le nostre trasmissioni. Cogliamo l'occasione per ricordare che ognuna di voi può aiutarci, perché questo è uno spazio aperto all'interno del quale far sentire la propria voce è quasi fondamentale. Ringraziamo dunque ancora una volta Rosa, anche perché senza di lei non avremmo potuto fare questa trasmissione. Allora, il titolo del libro è Con Pedigree, e si tratta di un testo molto molto carino che sicuramente vale la pena di leggere. Ma bando alle ciance, come diceva sempre mia madre, quindi cominciamo subito a leggere l'introduzione, quindi passo il microfono a Pina, e sperando che riesca a far funzionare il microfono, e quindi l'introduzione, che sarà scritta da Margherita Giacobino, del libro Pedigree, Con Pedigree. Pina, non si sente nulla. È acceso il microfono? È acceso, parla. Tieni, prendi questo. Ok, allora, si sente meglio adesso? Ecco, come al solito sono le nostre prime pasticciate. Allora, vi dicevo, buonasera a tutte, sono Pina, e dopo qualche settimana ci ritroviamo ancora insieme. Speriamo che questa trasmissione vi piaccia, che le musiche vadano bene, fateci, vi raccomando, i soliti trillini, così almeno se non altro non ci sentiamo sole e ci sentiamo in compagnia. Allora, bando adesso alle ciance, vado avanti nel leggervi praticamente la introduzione al libro Con Pedigree di Lola Vanguardia, e scritto, come diceva, come ricordava poc'anzi, da Margherita Giacobini. Allora, dicevamo, mi dovete scusare ma faccio molta fatica a tenere il libro in mano, il microfono, gli occhiali, non si capisce niente. Allora, dice la Giacobini: state per entrare nel magico mondo di Lola Vanguardia. Farete la conoscenza di una variegata e vivace comunità lesbica barcellonese e delle sue figure di maggiore spicco. La scrittora Adelaide Duarte, che scrive di amori felici e vive di amori infelici. La sua amica, la giornalista d'assalto Thea De Santos, un etero, dura e pura. La giovane aspirante regista Remei alla ricerca di una santa matrona che le dia una spintarella verso la produzione dei suoi film e la conquista dell'Oscar. Nati Pescador, sintesi di un tipo umano che noi tutte conosciamo, la grande seduttora a cui va sempre buca. Le ardite imprenditore Cecilia, Gina e Carina, proprietarie di un locale per donne, che cercano di conciliare sopravvivenze ideali, impegno politico e contabilità. E tante altre, incluse le leader dei vari gruppi storici, che, come dubitarne, sono impegnati in perenni diatribe interne ed esterne. Tra esse campeggia l'ineguagliabile coppia monogamica costituita da Rita Padiglia e dalla sua compagna da tempo immemorabile Neus Deus. L'azione ruota attorno al luogo di ritrovo per eccellenza, il Gay Night, nato sotto i buoni auspici di una moltitudine di fate madrine dedite alla polemica politica e linguistica, oltre che alla critica spicciola e al pettegolezzo. Eco di situazioni quotidiane e luoghi comuni, è il caso di dirlo perché sono i luoghi dove si ritrova la comunità. Le vicende si complicano con intrecci da commedia, colpi di scena e misteri. C'è un'espressione ricorrente nei romanzi di avanguardia. Con Pedigree è il primo di tre volumi che abbiamo trasportato tale e quale in italiano. La pluma, ovvero in gergo, quell'aria di famiglia, quel segno di appartenenza a una comunità diversa che di solito è visibile solo agli occhi delle dei concittadini del meraviglioso mondo lesbico gay. Siccome nella nostra lingua non esiste niente di equivalente, il che la dice lunga sui veli che ammantano la pratica lesbo-omosessuale in Italia, è possibile che la pluma si naturalizzi anche da noi per colmare una mancanza. A suo vantaggio ha il suono morbido, italianeggiante e la suggestione visiva, peraltro multiforme e adatta alle esigenze di lesbiche di campagna come di città. Evoca femminilissime piume di struzzo, ma anche copricapi da apascio o da bersagliere, per non parlare dell'orgogliosa penna nera sui cappelli degli alpini. Evoca anche la penna delle scrittore, nella sua incarnazione postmoderna la tastiera, e suona come un invito a scatenare la penna e la pluma, dando voce al desiderio. Anche se ci vorrebbe una Tea de Santos per estrarre parole chiare e dirette da certe scritture, certe politiche, certe personaggi pubbliche nostrane, pur praticanti. Cosa sia la pratica, ognuno lo capisce. Pratica è la traduzione letterale dello spagnolo entiende, e meglio risponde all'animus linguistico di un paese, il nostro, il cui motto, onorato nei secoli, resta «si fa, ma non si dice». Abbiamo reso il femminile universal neutro assoluto di avanguardia, evitando i soliti suffissi femminili, nesse e trice, che fanno inevitabilmente pensare alla costola del maschile originario. Adelaide Duarte è di conseguenza una scrittora e non una scrittrice, come ben sanno tanto la sua editora quanto le sue letture. E Nati Pescador è una seduttora, che è molto diversa da una seduttrice, perché non è stata creata da una costola di Don Giovanni, ma è la primigenia Donna Giovanna in persona, o lo sarebbe se la sfortuna non si accanisse contro di lei. Con Pedigree inaugura una trilogia di successo che è stata tradotta in varie lingue. Speriamo vivamente di potervi offrire anche i due volumi successivi. Passaggio rapido di microfono per annunciare che adesso ascoltiamo un po' di musica. Ascoltiamo Tracy Chapman con il brano You Are the One. Say that you're no good. Say your family's cursed with bad luck. I think your cute and misunderstood. I wouldn't change you if I could. Let them talk you down and call you names. My mind's made up, it ain't gonna change. Sure in my heart. Allora, adesso cominciamo, come vi abbiamo preannunciato prima, ad ascoltare la registrazione della presentazione che è stata fatta al Buon Pastore. Le voci che sentirete nelle registrazioni sono quella di Maria Palazzese, che fa parte della libreria Zora, che ha organizzato l'evento. Poi la voce sentirete quella di Sara Zanghi, che ha curato la traduzione insieme a Margherita Giacobino, e poi alla fine sentiremo la voce di Lola Vanguardia. Lola Vanguardia non arriva del tutto nuovo, perché lei è stata già presente in Italia in alcuni ambiti, in alcuni luoghi, dunque è già conosciuta in qualche modo al nostro pubblico, però questo libro ci consente invece di indagare di più anche su quello che è lei stessa e che Spiranda ci propone. Io penso che dire non avendolo letto, che però semplicemente sbirciandolo, che mi sembra che questo libro abbia desiderio di proporci una serie di letture anche diverse rispetto ad alcuni che sono un po' i classici di quella che è la letteratura lesbica, gay, omosessuale, che c'è stata offerta nel corso degli anni, anche attraverso una capacità pittorica descrittiva abbastanza variegata, forse anche divertente, non solo, ma anche con una serie di modalità, anche di proposta proprio di scrittura delle persone che nel libro si ritrovano. Il libro fa anche parte, questa è una cosa su cui io direi sarà interessante farla coinvolgere anche Francesca Polo, di una collana che si propone di fare una proposta editoriale, che è quella di portare i libri traduzione di libri in Italia in una maniera che sia in qualche modo difforme da quello che è il panorama che più generalmente noi conosciamo. Intanto sono libri che non sono mai stati tradotti, ma che anche hanno a che fare appunto con temi, argomenti specifici, ed anche con il desiderio di essere una traduzione che si disgiunge il meno possibile da quello che è il testo di partenza. Quindi è un'operazione in questo senso che credo ci voglia regalare un modo diverso anche di metterci in comunicazione gli uni con gli altri. Credo che su questo sarà poi anche interessante capire non solo che cosa Francesca Polo ci vuole offrire attraverso questo spunto e questa scommessa di Degas, ma anche come l'hanno vissuta le traduttrici e l'autrice. Quindi mi sembra che anche su questo noi potremmo poi darci un appuntamento per dirci che cosa le lettrici ne hanno poi tratte. Quindi a maggior ragione questa cosa potrà essere per noi interessante e per noi anche stimolante, l'opportunità di avere un'autrice che non italiana, spagnola, qui ci consente tra l'altro, anche in virtù di questa cosa che diciamo, forse di in qualche modo conoscere anche di più alcune delle cose che forse semplicemente pensiamo di conoscere, che invece per quanto c'è a comune non sono diverse. Io direi che però la prima persona che ci può, appunto, come dicevo prima, introdurre a questa lettura è proprio Sara Zanghia, quindi ti passo subito la parola. Devo usare quello? No, allora, grazie, buonasera. Vabbè, io non mi presento, sono Sara Zanghi, ci conosciamo di voi tutte. No? Va bene, prima di tutto vi presento Lola Vanguardia, naturalmente perché per il suono stesso del nome e del cognome si capisce subito che è uno pseudonimo. Il vero nome è Isabel Frank. Poi se le volete chiedere perché ha scelto lo pseudonimo, glielo chiederete a lei. È nata a Barcellona a metà degli anni 50 e vive vicino a Barcellona, in un paese molto vicino a Barcellona, una casa con un giardino, ha una bellissima, brutto dire cagna, una bellissima, come diciamo, canetta, però che è una canona, che si chiama Nua, ed è piena di pelo, molto coperta di pelo fino a terra, e lei l'ha chiamata Nua, che in catalano, se a Barcellona parlano molto in catalano significa nuda, e questo vi dà un po' il senso di chiederlo all'avanguardia, o Isabel Frank, vestita però nuova. Poi c'è un gattino che è comparso in quel giardino, abbandonato, che ormai è stato adottato, ma è stato adottato non solo da lei, soprattutto da Nuva. Per dirvi, lei vive così tranquilla in questo posto, naturalmente viaggia moltissimo, tra l'altro questo suo libro la sta portando in Italia per la terza volta, perché già l'abbiamo presentata a Firenze quando ancora non era stato tradotto, ma prima ancora durante l'inverno è andata ad Agape, e il libro è già stato tradotto in francese e in tante altre lingue, ora è approdato in Italia. E dirò subito che questo libro ha un seguito, anzi due seguiti, c'è una trilogia. Cioè, dopo aver pubblicato questo libro, per il successo che ha avuto, sono state fatte varie edizioni in Spagna, allora l'editore ha voluto che lei cercasse di continuare, e lei ha continuato con grande successo, che è venuto un secondo libro in cui questi personaggi che sono in questo libro di nuovo riprendono la loro vicenda, naturalmente andando avanti con vicende nuove, e con altri personaggi che si inseriscono, che portano avanti la storia, e poi allora anche quello successo, per cui la trilogia si è completata con il terzo libro, ancora con altri personaggi, in cui quello che diciamo sempre più si accentua in questi libri fino al terzo è un intreccio di tipo giallo, no? Però è un giallo che diciamo che si risolve bene, non è un noir, no? Perché lei, ecco, poi ne parleremo, insomma, la capacità sua è di giocare l'ironia, l'umorismo, intrecciandoli a misteri, a suspense, no? Che poi appunto negli altri libri addirittura si coloriscono di queste trame un po', diciamo, di tipo giallo, e che poi vengono sciolte naturalmente alla fine, a volte con qualche colpo di scena. I personaggi di questo libro: non è un romanzo classico, cioè tradizionale, nel senso che della trama, l'ambiente, il contesto, e qui il contesto è semplicissimo, e ci vuole una bravura straordinaria per giocare questi personaggi in un contesto che è semplicemente un bar. È un bar, ed è un bar particolare, è un gay night, cioè un bar omosessuale. E già su questo nome, dove ci vanno naturalmente, ci vanno donne, perché è tenuto da due donne, allora vanno le lesbiche, naturalmente si scopre che i gay vanno pure gli uomini, allora qui già sorgono dei problemi, no? Perché gli uomini vorrebbero allora che si chiamasse, anche che si accentuasse questa cosa, questo aspetto che ci vanno anche gli uomini, ci vanno anche i gay, per cui allora, tanto che poi finiscono, a quanto ho capito bene, che si perdono per la strada, non ci sono più. Invece le donne non vorrebbero che questo nome cadesse, gay, no? Allora già ci sono, ognuno si inventa un nome, ci sono già queste connotazioni, cioè il libro si apre subito con questi, diciamo, aspetti che sono già ironici, comici, su questo fatto che impuntarsi su questo aspetto, perché si chiama così, si dovrebbe chiamare in questo modo, cioè dà già una connotazione dell'ambiente. I personaggi che si avviano nelle serate classiche, che sono il venerdì e il sabato, perché il sabato non si lavora, e la domenica neanche, appartengono a tutte, sono dei lesbiche, naturalmente appartengono a tutte le classi sociali, per cui noi troviamo dalla tassista. Barcellona sono molte le tassiste, vero? Sono molte le tassiste. Io almeno a Madrid, in altre città della Spagna, ho visto moltissime più che in Italia. Quindi dalla tassista alla scrittora, alla giornalista, all'aspirante cineasta, che è una ragazzina per me molto simpatica, per cui poi questi personaggi sono seguiti. Solo se queste creature, per dirla femminile, perché qui c'è un problema enorme, che è un problema pure di traduzione, che l'Avanguardia cerca di usare quanto più possibile il femminile. Allora, per esempio, non dice personaggi, dice creature, perché così è possibile l'articolo femminile, è possibile il genere femminile. Allora, comunque, diciamo allora creature. Queste creature sono seguite anche poi nelle loro vicende private, ma soprattutto vicende private che riguardano la vita affettiva, la vita amorosa e la vita affettiva. Ed è qui che si scatena l'umorismo di Lola, l'ironia di umorismo, perché è un'ironia, dico subito, affettuosa, non è perché l'ironia può avere punte terribili, l'ironia può sfociare nel sarcasmo, può avere una valenza dispregiativa, come noi ben sappiamo, in molti scrittori, anche scrittori di questo genere, ma in Lola, l'ironia, la comicità, l'umorismo non ha mai una valenza dispregiativa verso le creature che le ama moltissimo, anzi è molto affettuosa e molto rispettosa dell'umanità. Cioè questo ridersi addosso, perché naturalmente Lola tiene bruma, come direbbe, si direbbe in spagnolo, oppure intiende, ma ancora si direbbe con un'altra frase, perché tener pluma o intiende significa essere lesbica, no? In spagnolo. Quindi naturalmente quando lei ride su questi personaggi ci fa ridere, ride su se stessa, quindi è l'autoironia. Poi c'è un motivo preciso che poi cercherò di dire, insomma, sullo scopo, almeno come io l'ho visto, di questi aspetti ironici, comici, eccetera. Vediamo un po', volevo così presentarvi sinteticamente, perché vedo che qualcuno già ha letto il libro, però molti di voi no, perché il libro è arrivato, ieri è arrivato, quindi. L'ambiente è quello, diciamo, è quello del bar, però in questo bar confluiscono persone, donne, che fanno tutti i mestieri. Si combinano fra di loro, cioè questa è una cosa. È vero che le lesbiche si combinano fra di loro, perché molte volte si ride su questo, no? Cioè, essendo l'ambiente ristretto, almeno in un luogo, a meno che uno non dice ora parto, mi giro tutto il mondo e allora cambia partner girando. Ma se uno sta, risiede in un luogo, finisce che poi sto giro capita che, no, uno si intreccia con uno, poi con un altro, si torna sempre e il cerchio si chiude. Su questa cosa che accade nella realtà, Isabel ci fa sorridere un poco. Allora, adesso facciamo una brevissima pausa musicale, poi leggeremo proprio un brano che spiega un pochettino meglio quello che Sara intendeva nel riciclaggio della piccola comunità. Allora, adesso ascoltiamo Year Girlfriend con il brano Lesbi Bop. Do it dry. baby. Never wanna stop, gotta be doing that baby. Allora, questo brano, ripeto, si intitolava Lesbi Bop, è tratto da un CD che ci ha regalato la nostra amica Leni, che è di una radio austriaca e anche lei cura una trasmissione lesbica. Io vedo languere il nostro telefonino per i messaggi, io ricordo il numero, così tante volte mi venisse in mente di mandare qualche messaggino. Il numero è 338-4146-682. Adesso andiamo a leggere invece un brano dal libro Con Pedigree di Lola Vanguardia, edito dal Dito e la Luna, che spiega un attimino quello di cui stava parlando prima Sara Zanghi nella presentazione. Allora, fu una settimana telefonicamente movimentata. Proprio il giorno dopo dell'inaugurazione del Gay Night, verso le 3 di pomeriggio, Nati Pescador telefonò a Gabby per raccontarle come le era andata con la Mora. «Mora? Quale Mora?» domandò Gabby ancora nei vapori dell'alcol. «Quella che ho rimorchiato stanotte nel Gay Night, o come si chiama?» «Ah, quella!» «Niente, mia cara, non è successo niente!» «Che mi dici? Ma se siete scappate via insieme tutte contente?» «Sì, però mentre andavamo a prendere un taxi, dice che ha lasciato a casa l'astuccio delle lenti a contatto, che non può passare la notte con me perché ha bisogno di un liquido speciale e non so che altre storie. E allora dico, allora andiamo a casa tua così risolviamo il problema». E lei fa: «Io vivo con i miei genitori e se mi pescano in casa con una ragazza non ci vedono più». «Non c'è problema», dico, «non faremo rumore». E allora salta fuori che anche la nonna vive con loro e ha un udito molto fino e lei quando gode è molto rumorosa. E allora io dico: «Senti, dico, e se metti le lenti a contatto in due bicchieri con un goccio di liquore non è lo stesso?» E lei dice: «No, è necessario un liquido speciale, se no si guastano e poi com'è, come non è, insomma». E allora dico: «Ma porca miseria, dopo che mi hai fatto arroventare le mutande per tutta la notte?» E lei dice: «Senti un po' che dice, ehi bella, che hai creduto?» Io dico: «Io? Niente». E lei dice: «Sì, sì, tu». «Io?» E la tizia allora salta fuori a dire che l'avevo assillata per tutta la notte. Allora io dico: «Ascolta, bella, nessuno viene assillata se non si lascia assillare, capito, Stella?» E salta su allora a dirmi se penso che era disposta a venire a letto con me solo perché avevamo parlato un po' insieme. Roba da non credere. Bisbigliò Gabby. Stronzetta la ragazzina, eh? E alla fine mi ha tirato un bel bidone. Non mi stupisce, continuò Gabby. Queste giovincelle se la tirano, eh? Eh già. Senti l'ultima, l'altro giorno, ti ricordi Pili? Chi? Pili? Sì, quella che aveva una storia con Lola e dopo era fidanzata con Aurora e ora sta con Marisa. Aurora, quella di Pati? No, Aurora di Pati ha avuto una storia con Lola, ma si sono lasciate e ora sta con Cesca. Parlo di Aurora di Tere, che dopo è stata fidanzata con Pili e ha avuto anche un flirt con Azuena. Ma chi? Quella della palestra? Sì. Ed è stata anche con Tere? Penso di sì. Ma non hanno proprio niente in comune quelle due. E con Paca anche, la parrucchiera, che è stata fidanzata anche con Lola e che ora neanche si parlano più. Ti ricordi? Mi ricordo di chi? Di Pili, no? Di chi sto parlando? Sì, esito Gabby. Non so, non credo, forse sì. Dunque, l'altro giorno questa Pili arriva e dice... Gabby, che da quando ha conosciuto Nadi si è comprato un cordless, mentre l'ascolta si muove per casa emettendo qualche esclamazione di tanto in tanto per segnalare la sua presenza. Durante la conversazione Gabby si prepara un'insalata fredda, se la mangia, lava le stoviglie, sistema la camera, mise nella lavatrice la biancheria sporca del giorno prima, poi avviò anche la lavatrice, annaffiò le piante, stirò la camicetta che voleva indossare quella sera. «Bene!» sospirò finalmente Nadi. «Questa sera abbiamo una riunione all'Ali, vero?» «Sì, alle 8 mi sembra». «Bene, allora ci vediamo al solito posto?» «Sì, avviso io Candy», propose Gabby. Ma la sua intenzione di risparmiare i timpani di Candy e la bolletta di Nadi non andò a buon fine. «No, no, la chiamo io, così le racconto». I like the gentleness of a night. Beh, c'è scritto Luisa Tura dicendo che lei usa le lenti a contatto, però quelle giornaliere e quelle che si usano non gettano. Anche questa può essere una soluzione. Però proseguiamo con la registrazione dell'evento e mandiamo un altro brano sempre di Sara Zanghi che parla dell'ironia. Ecco, l'umorismo pare che fa divertire, ma in realtà affronta con la risata una situazione che può essere anche che a volte difficile, dolorosa, solitudine, come Nati per esempio. Su Nati c'è tanta ironia, tanto scherzo, però sta povera creatura fa tanta fatica tutti i venerdì, tutti i sabati sera, poi quelli lì, una volta quella perde gli occhialini e le lenti a contatto, una volta quell'altra la gatta, poi questa resta sempre sola, quindi vediamo, in realtà c'è dolore poi nel fondo, no? Eppure il clown, no, ci sono queste figure classiche su cui sono stati scritti dei libri, adesso non mi ricordo, la loro molto belli. Senti, il clown fa metà fare le capriole, però il clown come si presenta sulla scena? Con i lacrimoni. Quindi lui fa le capriole, fa ridere, ma è un personaggio tragico, un personaggio che ha anche il suo dolore umano, no? E quindi l'umorismo in fondo è qualcosa che dà leggerezza allo spirito. L'umorismo è quella qualità letteraria, perché è capace di fare vero umorismo, perché guai, se uno lo sa fare non lo deve fare, perché altrimenti è un disastro, una cosa penosa. L'umorismo, come è saputo fare, dà libertà allo spirito, perché veramente solleva dalla pena, dal dolore, insomma dagli affanni anche quotidiani. Ora, questa capacità nel libro di Isabel, io l'ho vista, vedo quando uno poi legge il libro, lo traduce, lo vede, per ora per parola le cose le vede, insomma, no, perché a volte uno legge superficialmente, non tutto si... E allora il clown quindi mette sempre questo soffio d'aria, di libertà, di alleggerimento, diciamo, questo rappresenta questa figura che noi vediamo sempre, vediamo quando eravamo bambini o quando uno accompagna i bambini nei circhi, no? Con questo taglio che dà anche il suo libro, che scrive sempre a un'idea di fondo, io penso, magari voi glielo possiamo chiedere, che io sarei voglia suggerirsi qualche cosa. Che voglio suggerirci magari che ora è tempo pure di finire di piangerci addosso, meglio riderci addosso, perché insomma viviamo una realtà diversa, almeno nel nostro mondo occidentale, perché non è così dappertutto. In Spagna le lesbiche hanno per esempio una condizione di vita molto più allegra, più leggera della nostra, tra poco si possono pure sposare per esempio, no? E qui siamo con Buttiglione, con Papa, eccetera. Però voglio dire, però anche qui, a pensare, insomma, io che non sono nata ieri, ma anche l'altro ieri, un pochettino più avanti, so che io veramente a Messina, tempo dell'università, fra i 18 e i 20 anni, avevo la mia prima fidanzata e camminavo mano con mano per la città. Guardate quelle, me ne fregavo. Lo posso dire, è vero, mi hanno visto, ci sono ancora persone vive che lo possono testimoniare. Ma io credo più che altro fosse in coscienza. Però oggi le ragazze che non è che si baciano solo qui nel cortile del Buon Pastore, ma anche per strada, anche nel cinema. Io per esempio nel cinema ho visto molte volte ragazze che stanno sedute insieme qui a Roma tenendosi per mano, tenendosi abbracciate, no, in pieno cinema. Voglio dire, non è tempo più di piangersi addosso. Poi non ne parliamo, per esempio, se uno capita in un locale, come per esempio una sera che c'era un'amica spagnola, non era lei, un'altra, due anni fa, che voleva un locale di lesbiche, e qua non ci sono locali di lesbiche, senza stare chiuso da tempo, però ma poi mi ricordo adesso non formo. Allora mi hanno detto che a Testaccio c'era un locale dove... che ho visto? C'erano decine e decine di ragazzine, tanto che io alla fine mi sono avvicinata, vabbè, ma quando ho tornato a casa stanotte, perché erano le di notte, non vi dicono niente a casa. Una mi ha detto: no, come devono io? Bellissimo. Quindi, capite? Quindi, quando... Quindi, voglio dire, non è tempo di piangersi addosso, questo veramente, no, per il fatto di essere... Anzi, godiamoci la vita, più che possiamo. Questo ci vuole dire Lore. In qualche modo, Lore Isabel ci sta dicendo: finiremo di piangere, ridiamo, no, più che... Crediamo anche sui nostri piccoli problemi, o grandi a volte, ma quelli problemi grandi ci sono per tutti, eccetera. Ma suggerisce anche una possibilità, qualcosa di bello, di vivere anche, perché queste ragazze, per esempio, del Gay Night, lo pronuncio giusto, ma lo voglio sempre, vivono in solidarietà, sono solidali fra di loro. Per esempio, queste tre amiche, Nati, Gabby, Candy, Gabby, Nati, sono solidali fra loro, sono solidali, ma anche sono solidali Adelaide e Thea, sono solidali con Remei, quindi c'è una grande solidarietà, e di questo forse noi ne avremmo bisogno un poco, no? Ma ecco, quindi ci sono, diciamo, questi aspetti, anche a parte l'ironia, eccetera, no? Allora, una volta, siccome noi durante il periodo in cui lavoravamo alla traduzione ci scrivevamo degli email, anche perché a volte, che volevo dire qua, perché ogni tanto lei mette una parola, per esempio catalana, eccetera, lei ha definito questo libro parodico, che mi è piaciuto moltissimo. Ci diverte quindi questo libro parodico. Adesso leggo un po' per non pesantirvi troppo. Ci diverte portandoci delle sue creature in mezzo alla loro vita notturna a Gay Night, dove ogni fine settimana vanno in cerca di svago, d'amore, d'avventura. Allora, con descrizioni di scene erotiche da volte paradossali, gli intrighi fra intendimenti, le passioni, le fissazioni sulla garanzia d'identità e persino i pettegolezzi. Perché? Perché dico fissazione sulla garanzia d'identità? Perché questo libro si chiama... con pedigree, è come quello che si dà ai cani quando sono di razza, no? Perché qui c'è pure questo aspetto, c'è qualcuno che si sogna che le lesbiche, per essere ammesse in certi locali tipici loro esclusivi, dovrebbero avere una carta d'identità, un patentino che garantisca la loro autenticità di lesbica. Anche qui ci sono delle situazioni paradossali e spassosissime. Io mi fermo qui e do la parola a Lola, grazie. Allora, adesso su indicazione di Luisa Tura mandiamo un brano di Melissa Etheridge, che ha bisogno di tutto il nostro affetto, perché è stata da poco operata e, come dice giustamente Luisa Tura, la miglior cura per il cancro è la prevenzione. Quindi ascoltiamo Meet Me in the Back di Melissa Etheridge. Meet me in the back, don't make me wait too long. I could change my mind and tell you that it's wrong. So meet me in the back, where the light don't shine. First show me yours, maybe I'll show you mine. Love worth making when it can never last. So meet me in the back, don't make me wait too long. Baby, I could change my mind and tell you that it's wrong. So meet me in the back, where the light don't shine. First show me yours, maybe I'll protection. I will just say no. So meet me in the back. Don't make me wait too long. Maybe I could change my mind and tell you that is wrong. So meet me in the back, where the light don't shine. First show me yours, maybe I'll show you Allora, e concludiamo questo reportage sull'iniziativa svoltasi la settimana scorsa alla Casa Internazionale delle Donne, dove si presentava il libro Con Pedigree di Lola Vanguardia, edito dal Dito e la Luna, ascoltando proprio la voce dell'autrice. Sono molto molto molto contenta di stare qui in Italia per presentare la mia creatura, mia figlia Con Pedigree. Lo so che questo si dice sempre, però è vero, perché l'Italia è un paese molto vicino, la lingua è molto vicina, io ho tanti amici ogni volta di più, adesso mi sento anche adottata per colpa, cioè grazie a Sara Santieri, mi mano. Te leo, che voglio ringraziare pubblicamente per il suo affetto, per la colazione magnifica con pane con il pomodoro alla catalana e per la pasta alla siciliana. E chiedo anche scusa per il mio italiano, che è un po', va bene, italiano, perfetto. Un po' spagnolo, però diventa un italiano. Per presentare questo libro, riferirmi un po' alla storia del mio paese. Voi sapete che abbiamo avuto una dittatura per 40 anni, fino al 1975, e che è stato un periodo bruttissimo per tutti, ma anche molto per gli omosessuali, per le donne lesbiche. C'era una legge che noi dicevamo così, tra noi c'era l'articolo 26 che includeva tutto, no? Includeva il delitto politico, il delitto sessuale. Però un delitto politico poteva essere andare tre per la strada, cioè questo era considerato una manifestazione illegale. Non è che si fermavano, però potevano usare questo articolo per, se c'era qualcosa, per dire no, stavi facendo una manifestazione illegale per la strada. E anche ovviamente l'omosessualità era punita. Non è stato fino. La dittatura è finita nel 1975, però è stato anche un periodo lungo e lento per arrivare a fare certe cose, no? A tenere le rivendicazioni, sì? Sì. E fino adesso che abbiamo questa legge, si sta facendo questa legge di matrimonio omosessuale, al tempo si sta facendo una legge per andare più veloce con il divorzio, cioè. Parallelamente, perché la causa principale di divorzio è giustamente il matrimonio, cioè dobbiamo fare tutto insieme. Allora, al 1993 si è aperta la prima libreria gay e lesbica, la tematica gay e lesbica dello Stato spagnolo a Madrid, si chiama Mercana. E un anno dopo, nel 94, è aperta un'altra a Barcellona che si chiama Cuomica. Se tutte e due insieme hanno fatto la prima casa editrice di tematica gay e lesbica di tutto lo Stato spagnolo, 1995. E loro un giorno mi hanno chiamato per chiedermi collaborare con la sua casa editrice, perché dicevano che avevano poco materiale di donne, che non era di molta qualità e soprattutto che era sempre tragico. Veramente questa è una delle caratteristiche della questo che chiamavo per capirci la letteratura lesbica. Questa è, ci sono due, una la invisibilità e un'altra la tragedia. La invisibilità perché la donna non ha esistito nella storia, non aveva possibilità di un'educazione, di entrare nella cultura, di studiare, di fare niente. Questo lo racconta benissimo Virginia Woolf nel suo libro Una stanza per sé, cosa così, perché no, le donne non avevano opportunità di avvicinarsi alla cultura. Tante donne sono andate sorelle, perché questa era la unica possibilità, più la sua vocazione religiosa era il desiderio di studiare e di coltivare il suo intelletto. E invisibilità per la cultura e anche invisibilità per il sesso, per la sessualità. La donna non ha neanche, fino adesso ancora, non abbiamo neanche un nome per il sesso. C'è un'aneddota che voglio raccontare perché sembra che è inventata così per farmi ridere, però è vera. Io lavoravo molto tempo fa a una scuola con bambini un po' speciali, che adesso sono tutti inseriti, però in quel momento c'era una scuola che non c'era tanti bambini e che avevano certi problemi per imparare, però adesso sono bambini inseriti nella scuola ordinaria. E abbiamo deciso di fare lezioni di educazione sessuale, anatomica, cioè un po' di anatomia, un po' di riproduzione e basta. Però almeno dicevamo i nomi alle cose. Abbiamo avuto anche un problema per dire cosa diciamo, perché il maschio è chiaro, diciamo quello che è il maschio e il pene, però cosa diciamo? Beh, abbiamo visto i manuali, pene la vagina, ma diciamo pene la vagina, anche se non si vede, diciamo pene la vagina, e così abbiamo insegnato i bambini. Io avevo una studente che era molto, cioè sempre la testa un po' di là, no? Piaceva molto cantare, ballare, conosceva tutte le persone che imparei, tutto il giorno, però le cose delle scuole non è che arrivavano tanto. E un giorno, per sapere come andava in questo tema, l'ho chiamato e gli ho chiesto: Antonio, come si chiama quello che hanno i bambini? E lui mi chiede: cosa? E ho detto: quello che hai tu. Ma io dove? Cosa? Ma che quello che hai tu qui? Come si chiama questo che hai tu qui? No, non lo so. Dove si chiama il pene? Poi gli ho chiesto: e come si chiama quello che hanno le ragazze? E lui subito ha risposto: la pena. questo bambino visionario ha detto: ma veramente hai ragione, gli uomini hanno il pene e le donne abbiamo una tristezza profonda, una pena, non sapere cosa abbiamo esattamente in questione di sesso. Cioè, sempre mi è rimasta questa storia perché sembra così, però è vera, è così. Allora, non esistiamo sessualmente, non esistiamo intellettualmente, questa è una delle caratteristiche della letteratura, non ha avuto da Saffo fino a metà, un po' più avanti del secolo XVIII, non abbiamo letteratura lesbica, troviamo qualche cosa persa, però non come letteratura lesbica. E allora, l'altra caratteristica, inizia questa letteratura lesbica con un libro che si chiama Il Pozzo della Solitudine. Così inizia questo libro bellissimo. E dopo passiamo alla Foresta della Notte. E un po' più avanti arriviamo a avere il dramma scritto sul corpo. per tutto è stata una tragedia, su un'altra tragedia, su un'altra tragedia. Per me non è esattamente così. Penso che conviene che ci sia questa tragedia, conviene perché conviene come è una lotta del patriarcato metterci dentro che stiamo da sole dentro un posto di solitudine, che tutto è molto scuro. Questo conviene al patriarcato. Allora, quello che ho pensato, no, non è che sono messa a pensare, sono di una forma inconsciente, era che si dovevano togliere queste due miti della letteratura lesbica o delle donne, della storia del lesbianismo, che è la tragedia e la invisibilità. Togliere la tragedia di una forma presentando una storia così parodica, del ridere di noi stessi, perché penso che quando arrivi a ridere di te stessa è quando assumi quello che veramente sei. La infanzia, la pubertà, non è possibile scherzare su di gli adolescenti, non è possibile per loro scherzare su se stessi perché si sentono male con il suo corpo, e quando sei matura che puoi scherzare con te. Un'altra questione patriarcale qui, no? non essere mai adulta, non è scherzare su voi stesse. La donna di questa invisibilità presentando un ampio ventaglio di personaggi diversi, creature diverse, perché per mostrare che la donna lesbica non ha una caratteristica, non è solo un tipo di donna, sono alte, basse, magre, cioè bionde, da destra alla sinistra, con un'ideologia, con un'altra, eccetera, eccetera, eccetera. Cioè presentare tutto questo con questa diversità, con una struttura, con meno, eccetera. Il libro di Allora, questa era il resoconto di tutta l'iniziativa che presentava il libro con Pedigree. Io, a onor del vero, mi sento di dover aggiungere soltanto una cosa a tutto quello che è stato detto. È vero che la letteratura lesbica è cominciata con dei polpettoni indicibili, però è anche vero che ultimamente ci sono stati anche altri libri. Un pochettino più di respiro. Sto pensando per esempio a tutti i libri che ha scritto la Giacobino, sto pensando a tutti i libri che ha scritto Sandra Scoppettone, sto pensando a una serie di libri per i quali poi il CLR ha provveduto per tempo a fare anche delle recensioni. E comunque, proprio perché noi siamo il CLR, vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì di femminista e lesbico autogestito sugli 87.900 MHz di Radio Onda Rossa. La nostra trasmissione va in onda a partire dalle ore 20.30, mentre il martedì femminista e lesbico inizia alle ore 17 tutti i martedì. Ricordiamo che c'è la possibilità di ascoltarci in diretta attraverso il sito della radio, che è www.ondarossa.info, oppure tramite il sito ufficiale del CLR, che è www.clrbp.it. In entrambi i casi basta cliccare sull'icona in diretta per essere subito con noi. Salutiamo chi ci ascolta via internet, vale a dire tutte le donne di Caserta, di Bari, di Milano, di Catania, di Bologna, di Brescia e poi la New Entry di Napoli. Le ringraziamo per averci dato un segnale della loro presenza, anzi ne è arrivato uno proprio adesso che sta leggendo Pina e che poi leggeremo. Anzi, ci farebbe piacere sapere da dove ci ascoltate, e quindi mandateci un messaggio per dirci, non so, speriamo che no, Palermo è con voi. Ricordiamo quindi il numero per gli SMS, che è 338-4146-682. Potete contattarci anche qui in radio allo 06 49 17 50, soltanto per questa sera fino alle ore 22, cioè ancora per qualche minuto fino alla fine della nostra trasmissione, oppure alla Casa Internazionale delle Donne presso il Centro Femminista Separatista ogni mercoledì a partire dalle ore 21 al numero 06 68 64 201. questo è un telefono fax, segreteria telefonica, oppure ancora potete scriverci a CLR, Casa Internazionale delle Donne, via San Francesco di Sales 1B. A proposito, salutiamo Francesca che ci è venuta a trovare la settimana scorsa e speriamo che ci possa venire a trovare anche la settimana prossima. Passo il microfono a Pina che leggerà una serie di appuntamenti e l'ultimo messaggio che è arrivato. Eteridge. Pina, non si sente quel microfono. Tieni, Pina, non si sente proprio. Sì, c'è un problema, tieni. Non so che dire, ancora una volta praticamente il microfono pare che non funzioni, non sono io, non so se sono io che non li faccio funzionare, comunque vabbè. Per il messaggio era ancora Luisa che ci ringraziava per aver mandato in onda la canzone di Melissa Etheridge e tra l'altro era d'accordo con l'autrice quando diceva chi l'ha detto che essere lesbica è una tragedia. E ancora invece vado avanti con gli appuntamenti ricordandovi che siccome si stanno avvicinando le feste e come di consueto, come voi ben sapete, il CLR sta organizzando un'iniziativa per autofinanziare i futuri progetti politici e non, e per poter passare insieme una bella serata. E visto poi che da anni ci dicono che siamo streghe, mentre in realtà siamo delle befane buone, allora noi contro la Iella ci incontreremo venerdì 17 dicembre per la nostra lesbotombola. Non prendete impegni perché vi aspettiamo tutte. Allora ripetiamo, lesbotombola con cena venerdì 17 dicembre 2004 al centro femminista separatista di via San Francesco di Sales 1B a cura del CRR con ricchi premi e cotillon. E l'altro appunto. L'altro appuntamento invece è quello organizzato da Arci Lesbica ogni prima e terza domenica del mese. L'appuntamento si chiama L'LT e si tiene nel locale Lost Found. Beh, perdonate poi chiaramente il mio inglese. A partire quindi dalle ore 16:30, di volta in volta verranno organizzate delle mini iniziative all'interno della serata, ma al di là di tutto è carino andarci perché, come si dice, fa piacere prendere un tè insieme a tante lelle. E poi il locale è qui a San Lorenzo, allora Lelle Tè all'Host Found di via dei Sabelli 2 ogni prima e terza domenica. Sometimes I get a good feeling, yeah, I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. I really do believe that something's got a hold.